Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, a tutti voi un saluto pasquale. Nella cornice di questi giorni che ci fanno riflettere sulla risurrezione di Cristo, continuiamo il nostro approfondimento degli Atti degli Apostoli. Vorrei dedicare questo nostro appuntamento mensile a una persona speciale, vorrei dedicarlo a mia mamma che in questa settimana il Signore nella notte ha portato via con sé in modo imprevisto, improvviso, in soli 10 minuti. Lei era un'ascoltatrice attenta di questo nostro appuntamento mensile. Al termine delle trasmissioni mi diceva sempre di essere attento a quelli che ascoltavano, ad avere un linguaggio semplice per rendere sempre meglio la bellezza della parola. Quindi per lei chiedo anche la vostra preghiera perché il cammino verso il paradiso sia il più breve possibile. Eccoci allora attorno a questa pagina, una pagina tra l'altro molto cara a me e alla congregazione a cui appartengo, la congregazione dei Paolini, perché è la pagina che racconta la conversione dell'Apostolo Paolo. Siamo arrivati infatti al capitolo 9 degli Atti degli Apostoli. Ecco, questa sera insieme leggeremo i versetti che vanno dall'1 fino al 19. Dal mio punto di vista, se vogliamo cogliere la preziosità del brano che narra la rivelazione sulla via di Damasco, non possiamo separare i due momenti descritti da Luca, cioè il momento dell'incontro con Cristo sulla via di Damasco e il momento dell'incontro con Anania qualche giorno dopo nella casa di Damasco. Questi due momenti sono due momenti complementari dove uno illumina l'altro. Separarli nel momento in cui si riflette su quella che è stata una delle esperienze più forti dell'Apostolo, separarli significa non comprendere fino in fondo quello che l'Apostolo Paolo ha vissuto dentro di lui. Prima di leggere però il testo vorrei fare alcune premesse. Il racconto della rivelazione sulla via di Damasco negli Atti degli Apostoli viene proposto 3 volte durante la narrazione. Viene proposto al capitolo 9, poi lo ritroviamo nuovamente nel capitolo 22 e infine ancora una volta lo troviamo al capitolo 26 degli Atti degli Apostoli. E notiamo che ogni volta che Luca narra questo episodio dà degli accenti diversi. Si nota ad esempio un ampliarsi tra un racconto e l'altro del ruolo del risorto. All'inizio dice solo una parola, poi dice alcune frasi, alla fine al capitolo 26 tiene dei veri e propri discorsi. Oppure aumenta il tema anche della luminosità, accennata al capitolo 9, diventa una luce particolarmente forte nel capitolo 22, fino a diventare una luce accecante non solo per Saulo, ma anche per tutti quelli che lo circondano al capitolo 26. Come mai ci sono questi cambiamenti di accento da un capitolo all'altro che sembrano quasi enfatizzare sempre di più l'esperienza che Paolo ha vissuto sulla via di Damasco? Probabilmente perché l'autore sacro, Luca, ci tiene a sottolineare che Paolo non coglie subito l'impatto che ha avuto questo momento nella sua vita. Lo capisce col passare del tempo e soprattutto lo capisce man mano si trova davanti a sé uditori diversi a cui rendere testimonianza. In un primo momento deve rendere testimonianza solo a un uditorio molto ristretto, a quello ad Anania, a colui che gli sta attorno. Poi diventa la testimonianza nell'area del Tempio, davanti a tutti i giudei fedeli, rispettosi della legge, più avanti ancora al mondo pagano, davanti a quella che era l'autorità pagana per eccellenza che governava in Palestina. Quindi in questi 3 ambiti Paolo si trova a rendere testimonianza dell'esperienza sulla via di Damasco e pian piano interiorizza quella che è stata questa esperienza. Ecco, è un po' quello che succede a ciascuno di noi. A volte non riusciamo a capire il perché o il come di alcune esperienze che il Signore ci fa vivere. Solo con l'andare del tempo riusciamo a interiorizzare quello che il Signore ci ha voluto far sperimentare e a capirne soprattutto gli effetti. Ciò che all'inizio può apparire un effetto negativo, drammatico, tragico, vedremo che per Paolo è la rivelazione sulla via di Damasco non è subito un mistero glorioso, è inizialmente un mistero doloroso, ecco, lentamente acquisisce dei contorni diversi che assumono una luminosità che all'inizio uno non coglieva. Una seconda premessa che mi sembra giusto sottolineare è il momento in cui l'episodio narrato da Luca della conversione di Paolo, il momento in cui tutto questo avviene. Non è un momento particolarmente propizio per Paolo. E Paolo lo sottolineerà anche negli altri testi in cui farà riferimento a questa esperienza. Siamo in un momento in cui Paolo porta dentro di sé tanta rabbia, tanta acredine. La sua stessa adesione alla fede ebraica è una adesione da arrabbiato. Ripercorrerà questa esperienza dicendo che il suo zelo era uno zelo spinto agli eccessi e fa riferimento quasi quando descrive questo suo stato d'animo, fa riferimento a una delle figure più violente dell'Antico Testamento, per cui questi elementi sembrano quasi allontanare Dio dalla scena, eppure nel momento meno propizio Dio entra in scena e sconvolge i piani di Saulo, riavviando tutta quella che è la sua esistenza umana e di fede. Non solo, lo stesso contesto narrativo in cui questo avviene è un contesto molto delicato. Se voi ricordate, nell'appuntamento di un mese fa, noi abbiamo commentato l'apertura del Vangelo, dell'annuncio del Vangelo in terra pagana, con il famoso Etiope che si incamminava da Gerusalemme verso l'Etiopia, che rappresenta il primo evangelizzatore in terra pagana. Due mesi fa avevamo accostato l'annuncio di Filippo in territorio samaritano, anche qua un altro territorio di confine. E questo ci fa capire un'altra cosa, cioè Paolo, che noi consideriamo come il grande apostolo dei gentili, quindi il primo a evangelizzare in terra pagana, di fatto non è il primo che entra in territorio pagano, ben altri l'hanno preceduto sotto la spinta dello Spirito Santo. Questo ci fa capire che il vero protagonista della vita di Saulo e, insieme alla vita di Saulo, il vero protagonista di ogni vita cristiana è lo Spirito. Quello Spirito che possiamo invocare nei diversi momenti della nostra vita come il Consolatore, l'Avvocato, colui che sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Colui che ci conduce alla verità tutta intera. Ecco, è proprio questo spirito quello che apre le porte della missione cristiana, permettendo a Saulo, di essere uno strumento eletto nelle mani del Signore. Ultimo elemento di introduzione, prima di leggere direttamente il testo, è il fatto che l'esperienza con cui ci misuriamo questa sera è un'esperienza a cui Paolo dedica diversi momenti delle sue lettere. Il testo più significativo è il capitolo primo della lettera ai Galati, dove Paolo racconta le 7 esperienze più significative della sua vita e al centro di queste 7 esperienze significative colloca come una stella polare l'esperienza sulla via di Damasco. Questa stessa esperienza viene però evocata anche da altri testi, basta pensare al capitolo 9 della prima lettera ai Corinzi, al capitolo 3 della lettera ai Filippesi. Più volte Paolo torna su questa esperienza qualificandola con i termini più diversi. certamente lui, prima di definirla un'esperienza di conversione, la chiama esperienza di rivelazione ed esperienza di grazia, cioè Dio lo raggiunge in modo del tutto gratuito, manifestando in lui la pienezza del suo amore. Ecco allora i tre elementi di cornice all'interno dei quali possiamo leggere il capitolo 9 degli Atti degli Apostoli. Il primo elemento di cornice è l'impatto di questo incontro tra Saulo e il risorto. È un impatto che si fa strada adagio adagio, che Paolo non riesce a cogliere subito. Anzi, inizialmente è doloroso, ma poi si trasfigura e diventa un momento glorioso. Secondo aspetto, il momento dell'irruzione di Dio nella vita di Paolo. È un momento delicato, un momento che da un punto di vista umano sembra poco appropriato, eppure il Signore sa rendere un momento poco appropriato come il Kairos, quello che trasforma la vita di Paolo. Terzo elemento, l'accento non è posto sulla conversione di Paolo, anche se questo è ovviamente una conseguenza, ma l'accento è posto sulla rivelazione di grazia, sulla manifestazione dell'amore di Dio. Ecco, poste queste premesse, possiamo leggere il testo degli Atti degli Apostoli. Vi chiedo, almeno a chi ha la possibilità di avere un testo davanti agli occhi, di prendere un'edizione della Bibbia o del Nuovo Testamento e di aprirlo al capitolo 9 degli Atti degli Apostoli. Ascoltiamo il testo. Saulo, spirando ancora minacce e stragi contro i discepoli del Signore, si presentò al sommo sacerdote e gli chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, al fine di essere autorizzato a condurre in catene a Gerusalemme tutti quelli che avesse trovato, uomini e donne appartenenti a questa via. E avvenne che mentre era in viaggio e stava per avvicinarsi a Damasco, all'improvviso lo avvolse una luce dal cielo e, cadendo a terra, udì una voce che gli diceva: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Rispose: «Chi sei, o Signore?» Ed egli: «Io sono Gesù che tu perseguiti, ma tu alzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare». Gli uomini che facevano il cammino con lui si erano fermati ammutoliti, sentendo la voce, ma non vedendo nessuno. Saulo allora si alzò da terra, ma aperti gli occhi non vedeva nulla. Così, guidandolo per mano, lo condussero a Damasco. Per 3 giorni rimase cieco e non prese né cibo né bevanda. Ecco, questo è il primo elemento del dittico. Il secondo elemento del dittico che racconta la rivelazione sulla via di Damasco è contenuto nei versetti 10-19. Ora, per capire il centro sul quale l'Evangelista vuole porre la nostra attenzione, dobbiamo immaginare la narrazione come un disegno, il disegno di un triangolo che ha una punta ben definita, e la punta ben definita, cioè il fulcro, il centro, il cuore del racconto, sta nella domanda che Saulo fa a Gesù. Egli rispose: «Chi sei, o Signore?» Tutto il racconto può essere condensato in uno snodo attorno a questa domanda. Paolo vive un'esperienza che mette in discussione il suo volto di Dio, l'identità di Dio. E ciò che porta a questo è lentamente, come dire, una progressione che porta lì. Si parte dal viaggio, Paolo inizialmente è pieno del suo io, il testo dice che spirava minacce e strage contro i discepoli del Signore, lui si presentò al sommo sacerdote, lui chiese lettere per le sinagoghe di Damasco, lui voleva essere autorizzato a portare persone legate a Gerusalemme. C'è un protagonismo eccessivo. Saulo, come un uomo intraprendente, acceso, forte, dinamico. Ecco, l'uscita di scena è l'esatto opposto. Allora, dice il testo, prendendolo per mano, lo condussero a Damasco. Quindi un Saulo che è totalmente sconfitto nel suo io, viene addirittura preso per mano e condotto da altri, non solo, sta a Damasco 3 giorni senza vedere, non vede più nulla, ciò gli toglie la sua, il suo protagonismo e l'energia se ne va perché non mangia e non beve. Quindi vedete gli opposti, gli estremi di questa prima parte del dittico. Da un lato tutta la dimensione dell'energia di Saulo che spira minacce e strage, dall'altro invece la povertà di un uomo atterrito dalla grazia di Dio. Andando sempre più verso il centro troviamo altre due dimensioni che sono elementi su cui in genere noi ci soffermiamo, ma che per l'autore degli Atti degli Apostoli sono elementi di cornice, di pura cornice, che servono per aiutarci a capire quanto Paolo vive interiormente. E qui è il versetto 3, strada facendo, mentre stava avvicinandosi a Damasco, d'improvviso una luce dal cielo gli sfolgorò d'intorno, caduto a terra udì una voce. Quindi tre elementi, la luce, la caduta a terra, la voce del cielo. Quindi tre elementi che dicono quello che sta succedendo in Paolo e che trovano poi nell'elemento un po' discendente subito dopo la rivelazione del Signore la stessa corrispondenza, perché il testo dice la voce lo richiama e gli dice alzati in piedi, quindi da terra si deve rimettere in piedi, ti sarà detto ciò che devi fare, la voce continua. Gli uomini che viaggiavano con lui rimasero senza parole perché udivano il suono della voce ancora, ma non vedevano nessuno. Saulo si alzò da terra e aperti gli occhi non poteva vedere nulla, la luce si sostituisce il buio. Vedete un po' la corrispondenza tra i due aspetti. Sempre incamminandoci verso il centro c'è la domanda che Dio fa, che Gesù fa, il risorto fa a Saulo. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E poi la risposta che darà, io sono Gesù che tu perseguiti. Notate anche qua la corrispondenza. Al centro la grande domanda. Egli rispose, chi sei, o Signore? Ogni incontro con Cristo, questo mi sembra che sia il messaggio che ci viene da questo brano, non è mai un momento che ci congeda con un punto esclamativo. Cosa intendo dire? Quando uno fa autenticamente esperienza di Cristo o quando il Signore passa all'interno delle nostre vite, non ci lascia con dei punti esclamativi, non ci lascia con delle certezze tra le mani, ci lascia con degli interrogativi, ci lascia con l'interrogativo di Saulo che dice chi sei, o Signore. La presenza di Dio nella nostra esperienza di fede, nel nostro discepolato cristiano, è sempre un'esperienza che è avvolta nel mistero e che ci consegna nuovamente alla vita con un senso di maggiore rispetto nei confronti di quel mistero che ci avvolge e che non può essere contenuto nelle dimensioni di questa terra. Qual è tuttavia il rischio che Saulo corre in questo momento? Dopo questo impatto diremmo così violento, così forte sulla via di Damasco. Il rischio che Saulo corre è quello di lasciarsi andare, è quello di lasciarsi morire. Il testo dice che lo condussero a Damasco, lì stette 3 giorni senza vedere, non mangiò né bevve. Paolo è avvolto non dalla luce che ha incontrato, è avvolto dalle tenebre, non vede più. E non solo, Paolo vuole lasciarsi morire. Ecco perché, cari ascoltatori, dicevo all'inizio di questa trasmissione, non possiamo, quando riflettiamo sulla rivelazione del Cristo, del risorto a Saulo sulla via di Damasco, fermarsi a questi 9 versetti. Questi 9 versetti non portano un lieto annuncio, portano ancora un annuncio che finisce male, perché Saulo sembra volersi lasciare andare, sembra lasciarsi morire. C'è bisogno di qualcosa d'altro. Fino adesso sulla via di Damasco noi abbiamo un incontro personale di Saulo con il risorto. L'Evangelista Luca ci vuole sottolineare che L'esperienza cristiana autentica non può essere un tu per tu tra il fedele e Dio. Certo, questo tu per tu è necessario, perché è questo che poi andrà a incidere Paolo, ma ci vuole poi sempre il discernimento, il confronto, la verifica con una comunità, con la comunità cristiana. Ed è quello che ascolteremo nel secondo dittico di questo racconto della rivelazione sulla via di Damasco. Ma prima di continuare con la nostra riflessione, lasciamo un breve stacco musicale in modo che ciascuno di voi possa rileggere questi 9 versetti e interiorizzarli un poco. Ecco, dopo questa prima parte che avete visto è stata un attimino accompagnata da una musica un po' drammatica, triste, proprio perché il primo impatto non è stato luminoso, la seconda parte è una parte invece in cui la scena si rischiara, quindi vedrete che anche il secondo stacco musicale sarà più pasquale, gioioso. La seconda parte è racchiusa come secondo dittico nei versetti tra il 10 e il 19. Ascoltiamo il testo. C'era a Damasco un discepolo di nome Anania. Il Signore in una visione gli disse: Anania. Rispose: Eccomi, Signore. E il Signore a lui: Su, va nella strada chiamata diritta e cerca nella casa di Giuda un tale che ha nome Saulo di Tarso. Ecco, sta pregando e ha visto in visione un uomo di nome Anania venire e imporgli le mani perché recuperasse la vista. Rispose Anania: Signore, riguardo a quest'uomo ho udito da molti quanto male ha fatto i tuoi fedeli a Gerusalemme. Inoltre qui egli ha l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome. Ma il Signore gli disse: Va, perché egli è lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni, ai re e ai figli di Israele, e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Allora Anania andò, entrò nella casa, gli impose le mani e disse: Saulo, fratello, mi ha mandato a te il Signore quel Gesù che ti è apparso sulla strada che percorrevi, perché tu riacquisti la vista e sia colmato di Spirito Santo. E subito gli caddero dagli occhi come delle squame e recuperò la vista. Si alzò e venne battezzato, poi prese cibo e le forze gli ritornarono. Ecco, questa seconda parte del dittico è preziosa, perché è qui che c'è l'irruzione della luce nell'esperienza di Saulo. Notiamo che tutto inizia con il coinvolgimento in questa scena, in questo episodio, della comunità cristiana di Damasco, fatto attraverso il suo responsabile, fatto attraverso la figura di Anania. Da un lato c'è un Saulo che capiamo, non è un Saulo che si sta lasciando morire, ma prima il lettore non lo sapeva. In questo secondo momento è un Saulo che sta pregando. Dall'altro c'è un risorto che risponde coinvolgendo il responsabile della comunità. E qui è molto bello vedere come la figura di Saulo viene descritta, perché noi abbiamo una duplice descrizione. Abbiamo la descrizione di Anania da un lato e la descrizione del risorto dall'altro. Ed è come se le due persone, entrambe dicono il vero, come le due persone leggessero lo stesso soggetto, Saulo, da due punti di vista diversi. Uno lo legge dal punto di vista umano, di quello che Paolo ha fatto, quindi dal punto di vista del passato, dalle etichette che Paolo ha, l'altro, il risorto, lo legge sul piano del disegno di Dio, della volontà di Dio, e soprattutto in un'ottica di presente e di futuro. E qui abbiamo già una grossa provocazione per noi. Quando noi ci confrontiamo con gli altri, che tipo di lettura facciamo? È una lettura esclusivamente basata sul passato? Se è una lettura fatta esclusivamente sul passato, è una lettura che imprigiona l'altro, non gli permette di essere diverso, lo cataloga, lo etichetta, lo chiude, lo blocca. Se invece ci sforziamo di guardare l'altro con gli occhi di Dio, probabilmente riusciremo a scorgere quel disegno di Dio invece che apre l'esistenza del fratello o della sorella al presente e al futuro, in un orizzonte di grazia che gli permette di essere altro, di essere una persona luminosa. Quali sono gli elementi che caratterizzano la descrizione di Anania? Anania dice: Signore, riguardo a quest'uomo, notate, non lo chiama nemmeno per nome, ho udito da molti quanto male ha fatto ai tuoi fedeli in Gerusalemme. Anania quindi sottolinea il male che è legato al futuro apostolo Paolo, sottolinea il male che ha fatto, un male di cui molti parlano, si dice in giro, si racconta che abbiamo sentito, ci hanno detto il male. Il male in genere si fa strada in questo modo, gli si fa pubblicità, in genere non è faticoso per il male raccogliere pubblicità gratuita, il bene fa molta più fatica a darsi pubblicità, il male no, anzi a volte quando c'è qualche cosa di violento fa più audience, le immagini violente fanno più audience rispetto alle immagini di bene, di pace. C'è un film terribile che è uscito nelle sale circa 2 mesetti fa su questo tema, il titolo è Lo Sciacallo, che fa vedere come a volte il mondo mediatico lavora proprio su questo, sulla forza e l'impatto che il male ha sulle coscienze. Ecco, Anania fa lo stesso, inizia evidenziando il male, poi continua. Egli qui inoltre ha l'autorizzazione dei capi dei sacerdoti di arrestare, cioè dice qui io ho a che fare con una persona grande che ha un'autorizzazione di peso che coinvolge i sommi sacerdoti, insomma ci sono dei mandanti di peso dietro questa persona e Anania non si rende conto che sta parlando con il Signore, che lui ha un mandante ben più grande di tutti questi. Poi continua dicendo, ha l'autorizzazione di arrestare tutti quelli che invocano il tuo nome, si erge a difensore del nome del Signore, quasi a dire ma cosa mi stai facendo fare? Non vedi che questo è una persona che oltraggia il tuo nome e il nome indica ovviamente, sta ad indicare l'identità della persona. Cosa gli risponde il risorto? Il risorto gli risponde obbligando Anania a compiere una conversione, perché praticamente gli dice va, quindi non avere paura, perché egli è lo strumento che ho scelto per me, altro che essere una persona imbrigliata nel male. Là dove Anania vede solo il male, il Signore gli apre gli occhi per cogliere il bene, lo strumento che ho scelto per me, affinché porti il mio nome dinanzi alle nazioni. Quindi laddove Anania voleva ergersi a difensore del nome del risorto, il risorto gli dice guarda che io so difendere benissimo il mio nome, anzi egli sarà colui che porta il mio nome, non che lo oltraggia. Porti il mio nome alle nazioni, ai re e ai figli di Israele. Laddove Anania è prigioniero di una visione legata a Damasco, il Signore gli apre gli orizzonti in un mondo molto più ampio, alle nazioni e ai re e figli di Israele. e se voi ci fate caso, i tre racconti della rivelazione sulla via di Damasco toccano proprio questi ambiti. L'ultimo è il re, il secondo i figli di Israele, alle nazioni qui, in questo momento. E io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. Anania vede la sofferenza che la comunità cristiana sta vivendo, Gesù gli fa capire la sofferenza che Saulo dovrà patire per la comunità cristiana. E allora capiamo che il primo a convertirsi in questa scena non è Saulo. Il primo di cui viene chiesto un cambiamento a 360 gradi è Anania. Saulo non si è ancora convertito, Saulo è là, che non vede, non mangia, non beve, ma si è aperto ad una dimensione di preghiera, però con la sua visione ancora nel cuore, ancora ha la sua visione nel cuore. Il primo a ricevere una rivelazione non è Saulo, ma Anania. Questo cosa permette? Fa sì che quando Anania si presenta a Saulo, porta con sé un'esperienza vissuta. E questa esperienza vissuta e trasmessa permette a Saulo di vivere il suo cammino di rivelazione a sua volta. Cioè, cosa intende dire Luca nella narrazione degli Atti degli Apostoli? Ci dice che le conversioni non sono qualcosa di magico che arriva all'improvviso e sconvolge da un momento all'altro la vita di una persona. Ci può essere un momento che giunge all'improvviso, ma questo momento che giunge all'improvviso coinvolge una comunità cristiana, coinvolge dei pastori, coinvolge delle persone che si fanno portavoce dell'azione di Dio e che hanno già vissuto dentro di sé un'esperienza di rivelazione. Ecco perché quando Anania arriva da Saulo, anche le parole che gli dice sono significative, perché non solo Anania andò, quindi obbedisce all'azione del Signore, ma appena entra nella casa impone le mani. E noi sappiamo che negli Atti degli Apostoli il gesto dell'imposizione delle mani non è un gesto amicale, è la trasmissione di un potere, quindi immaginate voi, il responsabile della comunità di Damasco trasmette il potere più delicato di questa comunità al proprio persecutore e disse: Saulo, fratello, quindi lo chiama subito fratello, mi ha mandato a te il Signore, quel Gesù che ti è apparso sulla via che percorrevi, perché tu riacquisti la vista e sia colmato di Spirito Santo. Qui avviene rivelazione per Saulo. Nel momento in cui cadono le squame dagli occhi, Anania gli impone le mani e Saulo si ritrova ad essere da persecutore a fratello. Però tutto questo, notiamo, ha bisogno di un tocco concreto. Non basta l'incontro sulla via di Damasco, c'è bisogno di una mano che si impone sul capo di Saulo, c'è bisogno dell'accoglienza di una comunità, c'è bisogno di gente che gli offre cibo in modo che le forze gli ritornino, cioè c'è bisogno di una comunità che accoglie e fa vivere quell'esperienza. Allora la rivelazione può dirsi, per certi aspetti, non dico conclusa, ma avviata. Ecco, cari ascoltatori, lasciamo ancora un breve stacco musicale prima di leggere alcuni versetti ancora di questo testo. Quindi un breve stacco musicale prima di continuare con la nostra meditazione. Bene, cosa succede dopo l'impatto sulla via di Damasco e dopo l'incontro con Anania? Il racconto continua e ci fa capire come l'incontro con il risorto non è mai un incontro, come dire, quieto. È vero che c'è stato un momento forte per la vita di Saulo, ma subito la sua esistenza si presenta nuovamente in salita. Allora, ascoltiamo i versetti che vanno dal 19 in poi e che ci raccontano il prosieguo della rivelazione sulla via di Damasco. rimase alcuni giorni insieme ai discepoli che erano a Damasco e subito nelle sinagoghe annunciava che Gesù è il figlio di Dio. E tutti quelli che lo ascoltavano si meravigliavano e dicevano: «Non è lui che a Gerusalemme infieriva contro quelli che invocavano questo nome ed era venuto qui precisamente per condurli in catene i capi dei sacerdoti?» Saulo frattanto si rinfrancava sempre di più e gettava confusione tra i giudei residenti a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Trascorsero così parecchi giorni e i giudei deliberarono di ucciderlo. Ma Saulo venne a conoscenza dei loro piani. Per riuscire a eliminarlo, essi sorvegliarono anche le porte della città giorno e notte, ma i suoi discepoli di notte lo presero e lo fecero scendere lungo le mura, calandolo giù in una cessa. Venuto a Gerusalemme cercava di unirsi ai discepoli, ma tutti avevano paura di lui, non credendo che fosse un discepolo. Allora Barnaba lo prese con sé, lo condusse agli apostoli e raccontò loro come durante il viaggio aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come in Damasco aveva predicato con coraggio nel nome di Gesù. Così egli poté stare con loro e andava e veniva in Gerusalemme predicando apertamente nel nome del Signore. Parlava e discuteva con quelli di lingua greca, ma questi tentavano di ucciderlo. Quando vennero a saperlo, i fratelli lo condussero a Cesarea e lo fecero partire per Tarso. La Chiesa era dunque in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Si consolidava, camminava nel timore del Signore e con il conforto dello Spirito Santo cresceva di numero. Da questa narrazione si nota come Saulo, subito dopo la rivelazione sulla via di Damasco, parte con il fuoco nel cuore. Il Vangelo ha acceso una fiamma dentro di sé e lui cerca subito di testimoniarla, ma nel momento in cui testimonia quello che ha vissuto, quello che ha sperimentato, la situazione si fa difficile. Cercano di ucciderlo a Damasco e lui deve fuggire con quella modalità che fa quasi ridere il lettore, perché viene nascosto in una cesta e calato dalle mura. Nello stesso tempo però sullo sfondo si vede quasi la controfigura di un'altra grande personalità biblica che si è salvata grazie a una cesta, Mosè, per cui Saulo sembra quasi il nuovo Mosè destinato a portare la comunità cristiana fuori dai confini dell'ebraismo. Quindi questo è il primo contesto difficile per Saulo. Subito dopo arriva a Gerusalemme, ma a Gerusalemme le cose non vanno meglio, perché prima gli apostoli hanno paura ad accoglierlo, poi lo accolgono con la liberazione, con la mediazione di Barnaba, ma quelli di lingua greca cercano di ucciderlo, perché getta confusione, mette in crisi, crea difficoltà su quegli elementi che sono considerati i fondamenti della fede ebraica. Ed ecco allora che anche da qui Saulo deve fuggire. Lo portano a Cesarea e da Cesarea rientra a Tarso. E qui inizia un'altra fase della vita di Paolo, che non dura settimane, non dura mesi, dura anni. E in questi anni, da quanto almeno noi sappiamo, sia dalle lettere sia dagli Atti degli Apostoli, in questi anni la vita di Saulo è particolarmente isolata, cioè non ci viene narrato tutto, nulla. Sembra che l'Apostolo sia a Tarso totalmente solo. E allora viene spontaneo chiedersi: perché tutta questa esperienza, se poi Paolo è costretto a chiudersi nel mondo da cui è venuto? È necessario un momento di interiorizzazione. Ecco, Paolo, dopo quello che ha vissuto sulla via di Damasco, non può partire come immaginava ad essere l'araldo del Vangelo. Deve entrare nelle modalità del Vangelo, e la prima modalità del Vangelo è quello della vita silenziosa di Nazareth. Paolo rivive con sé le tappe della vita di Gesù e la prima parte della vita di Gesù è quella del silenzio di Nazareth, 30 anni di silenzio. Per Saulo non saranno 30 anni, ma sarà comunque un periodo prolungato in cui lo spirito gli permette di interiorizzare quanto da lui vissuto sulla via di Damasco. E subito l'autore sacro termina dicendo che la Chiesa era in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Finalmente, sembra quasi dire Luca, dopo essersi, fra virgolette, liberata di Saul e averlo rimandato nel posto da dove era venuto, sembra ritrovare la pace. La scena si era aperta con l'inquietudine di Saul che spirava minacce e strage e non lasciava quindi in pace la Chiesa. Era continuata con l'inquietudine che Paolo aveva portato nel momento in cui si era deciso a predicare prima a Gerusalemme, poi a Damasco, mettendo in difficoltà la comunità di Damasco e la comunità di Gerusalemme, quindi c'era inquietudine. Ora finalmente, visto che lui è tornato da Cesarea a Tarso, quindi nel suo luogo d'origine, senza di lui, la Chiesa è finalmente in pace per tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria. Si consolidava e camminava nel timore del Signore e con il conforto dello Spirito Santo cresceva di numero. Nello stesso tempo lo Spirito Santo forgia l'identità dell'Apostolo in modo da prepararlo per essere presto l'araldo del Vangelo alle genti. Presto con sempre la mediazione della comunità. Saulo non fa niente da solo, è sempre la comunità che lo accoglie, che lo stimola, che gli fa vivere i giusti momenti di silenzio. Colui che tornerà in scena ed andrà a prendere l'apostolo Saulo sarà proprio Barnaba. Barnaba fa da anello portante di tutti i momenti della vita dell'apostolo. Lasciamo quindi, cari ascoltatori, care ascoltatrici, lasciamoci interpellare da questo racconto della rivelazione di Saulo sulla via di Damasco. Adesso è la nostra trasmissione, la nostra puntata entra nella seconda parte. La seconda parte, come sempre ricordo, è una parte importante quanto la prima, dove ciò che conta sono le vostre domande, le vostre brevi riflessioni. La regia vi darà il numero per contattarmi e su quello continueremo l'approfondimento di questo stupendo capitolo 9 degli Atti degli Apostoli. Pronto? Con chi parlo? Buonasera Don Giacomo, sono Caterina da Potenza. Bene Caterina, mi dica. Senta, io ho seguito con molta gioia il racconto di San Paolo. E le volevo dire questo, io non mi meraviglierei se il Signore apparisse addirittura a Califfo, cioè quello che sta incitando gli uomini alle barbarie più atroci che stiamo vedendo alla televisione, oppure a quelli dell'Isis, a un uomo dell'Isis, se apparisse, io non posso dire perché il Signore sa quello che fa e potrebbe anche apparire a loro e farli convertire. Io prego sempre che questo accada, Padre. Grazie, la ringrazio, la sento, l'ascolto per radio con tanto piacere, grazie. Carissima Caterina, la ringrazio del suo intervento, no? Penso di poter dire questo, anche se sono d'accordo nel dire che le vie della misericordia del Signore e del suo modo di rivelarsi sono le più diverse, le più impensate, quindi non bisogna mai mettere limiti all'azione della provvidenza. Nello stesso tempo mi sento di dire che il Signore appare già a chi fa il male e appare a chi fa il male nel momento in cui le persone che sono vittime di questo male muoiono conformi a Cristo. Ecco, nel contesto dei cristiani perseguitati dall'ISIS o da altre realtà nelle parti più svariate del mondo, penso che la testimonianza che viene data negli ultimi istanti della propria vita è spesso una testimonianza che rende visibile il Cristo, perché lo sappiamo, il cuore dell'esperienza di Paolo è: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. E il Signore stesso, in diverse pagine del suo testamento, narrato nel Vangelo di Giovanni, dice chiaramente, no, che negli ultimi istanti della vita, di una vita pienamente donata a Lui, è Lui che vive nei Suoi, è Lui che è presente nei Suoi, come il Padre era presente in Lui. Quindi, Caterina, il Signore appare già. L'importante è, come dire, lasciarsi raggiungere da questa luce. La luce risplende nelle tenebre, ma come ci diceva il prologo di Giovanni, può capitare a volte che le tenebre non hanno nessuna intenzione di accogliere questa luce. Grazie di cuore per il suo intervento. Pronto? Sono Daniela da Bologna. Sì. Vorrei che ampliasse un po' il discorso, perché è stato scelto Barnaba per aiutare Saulo nei primi passi dopo la conversione. Sì, la ringrazio. Allora, nel racconto degli Atti degli Apostoli, Barnaba ha un ruolo fondamentale. Barnaba ha un ruolo fondamentale fin dagli inizi delle origini cristiane. Noi sappiamo che dopo quello che è il sommario che ci presenta i pilastri della fede, dell'esperienza cristiana, quei pilastri che troviamo nell'insegnamento degli apostoli, nella preghiera, nella coinonia e nella frazione del pane, questi sono i quattro pilastri già annunciati dal capitolo 2, Luca vuole presentare dei modelli di tutto questo e Barnaba fin dall'inizio viene presentato come il modello che meglio incarna questi valori, e non solo li incarna, ma su di essi sa impostare la comunità cristiana. Ora, l'ha imposta in modo tale da saperli vivere anche nei confronti degli altri, quindi questo modello dell'esperienza cristiana che è Barnaba diventa anche colui che sa individuare dove l'azione di Dio opera. Quindi Saulo diventa praticamente quello su cui Barnaba riconosce l'azione di Dio in atto, e con lui Barnaba costruisce alcune pagine nuove dell'esperienza cristiana. Sappiamo che la stessa missione cristiana si apre con Barnaba e Saulo. Saulo sa cogliere il disegno di Dio, non a caso il suo nome sarà figlio dell'esortazione. È uno che non si lascia schiacciare dagli eventi. Viene mandato nella comunità di Antiochia in un momento delicatissimo, quando questa comunità è provata dalla persecuzione, avremo modo di approfondirlo nelle puntate successive, e soprattutto sa riconoscere in Saulo colui che ha le caratteristiche adatte a questa pagina nuova dell'esperienza cristiana. Barnaba è un po' il modello dei responsabili della comunità cristiana. I responsabili della comunità cristiana dovrebbero sempre avere il discernimento di quest'uomo di Dio, perché la comunità possa fare i passi che lo Spirito chiede da lei. Grazie di cuore alla nostra ascoltatrice di Bologna. Pronto? E pronto, padre. Sì, buonasera. Io sono buonasera. Carlo di Arezzo. E la ringrazio per la trasmissione, che purtroppo seguo solo da poche puntate. E l'episodio di cui lei ha parlato, cioè Anania che impone le mani su Saulo, e quindi lo Spirito Santo praticamente salva e santifica il futuro Paolo, mi ha fatto venire in mente un omonimo, cioè un altro Anania, quello che praticamente muore fulminato quando, dopo aver mentito a Pietro, e anche Pietro mi sembra invochi lo Spirito Santo, ecco, diciamo, mi chiedevo a questo punto, siccome ovviamente lo Spirito Santo esercita solo funzioni santificanti e salvifiche, e è stato detto: io sono il Dio vivente, non voglio la morte del peccatore, ma che questo si converta e viva, anche se magari lei ne avrà parlato nelle catechesi precedenti, però io, come ripeto, l'ascolto solo da poche puntate, come si spiega questa morte di Anania? Mi fa pensare che ci fosse stato nostro Signore al posto di Pietro, magari le cose sarebbero andate diversamente. Ecco, la ringrazio e l'ascolto per radio, padre, grazie. La ringrazio, signor Carlo, per questa sua domanda, perché effettivamente capita a volte, no? Sentendo l'Anania di Saulo, fare degli accostamenti all'Anania del capitolo 5 degli Atti degli Apostoli. Allora, come si spiega la situazione drammatica che coinvolge quest'uomo con sua moglie al capitolo 5 degli Atti degli Apostoli, esattamente dopo che l'autore degli Atti degli Apostoli ha descritto l'ideale della comunità cristiana, fondato sulla comunione, sulla coinonia tra i fratelli. Cosa è successo? Come mai la morte è riuscita a farsi strada in modo così violento all'interno di questa coppia? Penso che l'autore sacro ci permetta di dare una risposta abbastanza solida a questo, dicendo che tre sono gli spiragli attraverso i quali la morte si può infiltrare nella comunità cristiana. Il primo spiraglio è il vuoto. Se noi andiamo a leggere il racconto degli Atti degli Apostoli, Pietro, parlando con Anania, gli dice: perché Satana ti ha riempito il cuore? Se Satana riempie il cuore di Anania, è perché quel cuore prima è un cuore vuoto. Teniamo presente che nel capitolo precedente Luca aveva descritto i cristiani come pieni di Spirito Santo. Quindi quando il male si infiltra? Quando il cuore è vuoto di Spirito Santo. Quindi il limite di quest'uomo è, di Anania, è l'assenza di Spirito Santo. Ovviamente però questo non basterebbe per provocare la morte. Ci sono altri due elementi molto più gravi. Il vuoto è una minaccia, noi sappiamo tutti facciamo esperienza nel nostro percorso di vita di passaggi in cui si ha la sensazione di avere il cuore vuoto. E sappiamo che quando noi facciamo l'esperienza del cuore vuoto, quell'esperienza è delicata. I momenti più critici, i momenti di crisi che ciascuno di noi con la sua scelta di vita, con la sua vocazione può vivere, sono sempre legati al cuore vuoto. Il vuoto è un'esperienza molto pericolosa, quindi se uno si chiude in se stesso c'è qualcuno che prende il posto, non certo lo Spirito Santo, perché lo Spirito vi abiti bisogna confrontarsi, non celare questo cuore vuoto. Dicevo, questo aspetto è minaccioso, ma non basterebbe a provocare la morte. Ecco allora il secondo momento. Cosicché, dice sempre Pietro, hai mentito allo Spirito Santo. Cioè, il secondo elemento negativo che tocca Anania e anche la moglie Saffira è la menzogna. Il male si infiltra là dove c'è la menzogna. Ora, quando noi abbiamo riflettuto sull'esperienza di Saulo, una cosa dobbiamo dirla. Saulo, quando aggredisce o spira minacce e strage contro i credenti, non lo fa in nome di una menzogna, lui è convinto di fare il bene. E qui l'elemento drammatico, che a volte in nome di Dio si è convinti di fare il bene quando si fa il male. E il Signore gli apre gli occhi e gli fa capire che lì c'era la menzogna, però Paolo inizialmente non parte con un elemento di menzogna, anzi, lo dirà nelle sue stesse lettere, io ero il più zelante di tutti i miei fratelli, con uno zelo eccessivo, si paragona a Pincas dell'Antico Testamento, che è una figura che viene lodata da Dio per il suo zelo, quindi qui l'elemento era forte. Ora, in Anania le cose sono diverse, Anania e Saffira sanno di essere nella menzogna e agiscono nella menzogna. Perché sanno di essere nella menzogna? Allora, qua dobbiamo un attimo metterci nel contesto del primo secolo. Le comunità cristiane del primo secolo non erano come le parrocchie di oggi, dove tutti si ritrovano in un edificio che è la chiesa o la cappella o quello che volete voi, in un edificio grande, no. Non c'erano chiese nel primo secolo. Quindi i luoghi dove la comunità si trovavano, quali erano? Erano le case. Però perché una casa fosse abbastanza ampia, quella casa doveva appartenere a qualcuno ricco. E tra le persone ricche che davano segni di maggiore generosità e di maggiore fede, alcuni venivano scelti come responsabili della comunità. Quindi le singole comunità cristiane si ritrovavano in case diverse. Ad esempio, a Corinto noi sappiamo che la comunità cristiana era frazionata in almeno 4 diverse case. C'era chi faceva riferimento a Apollo, chi a Paolo, chi a Cefa, chi a Cristo, lo dice fin dall'inizio Saulo scrivendo a loro la lettera. Quindi era una comunità che si ritrovava in 4 ambienti diversi, ognuno dei quali aveva una propria guida e ognuna di questa guida aveva un suo punto di riferimento. Anania e Saffira, che possedevano campi e quindi erano persone agiate, avevano una certa liquidità e disponibilità economica, cosa fanno? Agiscono con menzogna perché? Perché agli occhi della comunità si fanno vedere generosi, pii, però dentro di sé tramano solo per i loro interessi. Probabilmente il loro obiettivo è raggiungere la guida della comunità, occupare questo posto. Però agendo con menzogna non solo tradiscono la comunità, ma tradiscono il Signore, tradiscono lo Spirito, perché dicono in altre parole che loro non credono al Signore che è risorto, perché se credessero che il Signore è risorto ed è presente in mezzo alla comunità, non avrebbero mai fatto quel gesto. Ecco allora che è questa la menzogna che rende grave il loro gesto. E poi c'è un terzo elemento, la coinonia distorta. Questi due coniugi, che dovrebbero essere l'emblema della comunione perché sono una coppia che vuole essere responsabile della comunità, una coppia ricca che si deve occupare dei poveri, tutti elementi della coinonia, questa coppia si unisce per tramare il male. E allora capite bene, i tre elementi che portano morte nella comunità, quali sono? Il vuoto, la menzogna e la coinonia nel male. Ovviamente questi tre elementi su cui Luca pone l'accento rivelano anche i tre fondamenti forti che invece su cui si regge la comunità, la pienezza di spirito, la verità e l'amore per la verità e la comunione nel fare il bene. Quindi vedete come questa scena di Anania e Saffira, che sembra una scena veramente difficile da accogliere, da ascoltare, serve a Luca da mettere proprio all'inizio della comunità cristiana per metterci in guardia dal peccato delle origini, perché come c'è il peccato delle origini al capitolo 3 della Genesi, c'è il peccato delle origini della nuova creazione rappresentata dalla comunità cristiana al capitolo 5 degli Atti degli Apostoli. Ecco, spero Carlo di avere un pochino chiarito i punti del tuo interrogativo. Grazie per averti amato. Pronto? Sì, buonasera padre, sono Fabio, lo chiamo da Catania. Mi dica Fabio, mi dica. Sì, l'esperienza che io mi ritrovo maggiormente è quando Paolo dice il bene che vorrei fare non lo faccio, il male che non vorrei fare lo faccio. Ecco, il mio cuore a volte è disposto a fare tutto il bene del mondo, ma non ci riesco. Se ciò per esempio sono mendicante e mi chiede un euro, io ho in tasca un euro, vi do 50 e non un euro. Ho paura, paura di spogliarmi, magari io non sono ricco, però ho paura di fare tutto il bene che vorrei fare. Non riesco, perché padre? E questo mi crea quel vuoto e quel senso di tristezza e che non mi rende felice. Ecco, tutto qua padre, grazie. Aspetto con ansia la sua risposta. Una buona. Caro Fabio, prima di tutto grazie per il tuo intervento, perché la tua non è solo una domanda, ma è una condivisione di vita. E non sempre è facile, come dire, esporsi come tu ti sei esposto, no? In questo momento raccontandoci qualcosa di te. Quindi questo è un dono che fai a me e a tutti gli ascoltatori. Quindi prima di tutto grazie per questo tuo modo di porti. Ecco, sento di rispondere con semplicità avendo proprio davanti il modello dell'Apostolo. Paolo, e lo notiamo percorrendo tutte le sue lettere, non ha mai nascosto la lotta sua interiore. La lotta sua interiore, Paolo ha lottato dall'inizio alla fine e ha presentato la stessa esperienza cristiana come una battaglia. Nella seconda lettera a Timoteo, chiudendo l'esperienza della sua vita, io sono tra quelli che sostengono che la seconda lettera a Timoteo non è deuteropaulina, ma è stata proprio scritta da Paolo. A conclusione della sua vita dice: ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede, ho combattuto la buona battaglia, cioè vive la sua vita come una lotta. Al capitolo, mi sembra, 6 della lettera agli Efesini, se non è questo capitolo è un altro, ma è sempre in questa lettera, descrive la vita cristiana come un combattimento spirituale. In un altro passaggio dice: tratto duramente il mio corpo come un lottatore, perché non accada che dopo aver combattuto io, venga io stesso, dopo aver partecipato alla lotta, venga io squalificato. Voglio combattere secondo le regole, dice Paolo. Quindi più volte l'immagine della lotta lo accompagna, come nel brano da te citato, Fabio, cioè il capitolo 6 della lettera ai Romani. La lotta è segno che dentro di noi c'è una fede in cammino. Non possiamo pretendere di essere, come dire, perfetti da un momento all'altro. La lotta è quello stimolo a crescere, perché il Cristo possa prendere sempre più forma in noi. Quello che ci deve far paura è quando non lottiamo più, è quando ci adagiamo. Ma la lotta è un elemento negativo. E guarda, Fabio, che anche la tristezza può essere un elemento positivo. La lotta, come la tristezza, è un elemento positivo, se ben colta. Perché è un elemento positivo? Perché diventa quel pungolo, quello stimolo a capire ciò che nella nostra vita possiamo migliorare. Vedi, tu dici: uno mi chiede un euro, gli do 50 centesimi, ma di grazia, magari 10 anni fa riuscivi a dare solo 20 centesimi. Tra 2 anni magari ne terrai 70. Adagio, lentamente il Signore ci plasma per rendere i nostri cuori simili al suo. Quello che dobbiamo chiedere al Signore è di renderci, come dire, sempre forti nella lotta come Lui. All'inizio della nostra puntata evocavo quella invocazione tradizionale allo Spirito Santo, no? Che è proprio quella che ci può aiutare in questo cammino di conformazione a Cristo. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, drizza ciò che è sviato, dona i tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Ecco, quando noi preghiamo in questo modo, la nostra vita cristiana non può essere piatta. Non saremo né caldi né freddi al punto tale che rischiamo di essere vomitati, cioè, così dice il testo dell'Apocalisse, ma saremo persone in cammino, persone che si lasciano plasmare secondo il modello di Cristo. Grazie davvero, Fabio, per il tuo interrogativo. Pronto? Pronto, buonasera. Don Giacomo, sì. Mi sente? La sento bene, mi dica il suo nome e da dove chiama. Io mi chiamo Felice, chiamo da Scafati, provincia di Salerno. Sono un non vedente, ex centralinista. Sì, mi dica. Comunque la ringrazio prima di tutto per le belle trasmissioni. Io seguo Radio Maria da molti anni, quindi mi appassiono un po' di tutto. Poi leggo anche la Bibbia, perché lei saprà che Noi non vedenti abbiamo il sistema Braille, penso che lei lo sa, certo, no? certo. E quindi la domanda, più che una domanda, è una cosa di curiosità. Io mi immagino un pochettino, mi perdoni, però le chiedo umilmente scusa, mi immagino un pochettino i capi dei sacerdoti, diciamo così, gli hanno dato, diciamo, questa autorizzazione a Paolo di perseguitare i cristiani. Mi immagino quando avranno saputo che Paolo, insomma, si è convertito, immagino un po' la furia, insomma, non so se sono stato chiaro. Certo, signor Felice, lei è stato molto chiaro. No, eh? mi chiami pure Felice, mi dia pure del tu, non si preoccupi. Va bene, okay. Grazie della sua sottolineatura. Effettivamente ci viene detto nel racconto del capitolo 9 quello che i giudei provano, no? Perché ci viene detto che, vediamo un po', trascorsero parecchi giorni e i giudei deliberarono di ucciderlo. Perché? Perché gettava in confusione tutta la comunità giudaica di Gerusalemme, predicando dappertutto nel nome del Signore. Ecco, questa situazione che tocca in prima persona le autorità religiose diventa una provocazione inaccettabile. Cosa è inaccettabile nell'annuncio di Saulo, nell'annuncio iniziale di Saulo? Ecco, gli studiosi ritengono che l'elemento inaccettabile di Saulo all'inizio è proprio quello della dimostrazione che Gesù è il Messia. Dire che Gesù è il Messia significava riconoscere, prima di tutto, che Dio aveva trasformato una maledizione, quella della morte in croce fuori dalla città santa, in luogo della manifestazione del suo disegno. E già questo era una cosa, provocatoria, assurda. Due, significava riconoscere nel messaggio di Gesù, in tutto il messaggio di Gesù, che quel messaggio era vero, con la relativizzazione di alcuni aspetti della tradizione, con la relativizzazione del Tempio, la relativizzazione di alcune tradizioni umane, per riportare invece alla luce quella che era l'anima dei comandamenti, ma soprattutto significava riconoscere che il Messia era morto e risorto. Ora, riconoscere questo significava già dover fare un passo in avanti, perché questa persona non solo era il Messia, ma in questo Messia c'era la potenza di Dio, perché solo la potenza di Dio può vincere la morte. Capite bene che una cosa del genere metteva in discussione completa tutto il sistema religioso, ebraico. Per cui occorreva una ridefinizione, una rilettura delle cose. Ora la comunità cristiana di Gerusalemme è la prima a proporre questa rilettura, una rilettura che ritrova l'anima dell'ebraismo, ne sottolinea l'importanza e la vive in modo nuovo, senza nulla rinnegare della grande esperienza vissuta dal popolo ebraico. Quindi tutto sta in questo. Grazie, quindi Felice, per averci permesso di sottolineare ulteriormente questo aspetto, che è una dimensione effettivamente importante. Non dimentichiamo che Paolo stesso nei suoi racconti, quando ripasserà la sua biografia, nei passaggi biografici delle sue lettere, sottolinea molto le sue origini, ebreo da ebrei, giudeo quanto alla legge, fedelissimo nell'osservanza, circonciso l'ottavo giorno, per far capire che tutta l'eredità ebraica non è stata respinta, ma è stata riletta alla luce della risurrezione di Gesù. Grazie mille per questo suo intervento. Pronto? Sì, pronto, buonasera padre, sono Anna da Catania. Più che un quesito, un chiarimento le chiedo. Dopo che Paolo si è incontrato con Gesù sulla via di Damasco, poi è andato in casa di Giuda, eccetera, per 3 giorni non ha preso cibo e voleva lasciarsi andare, ha detto, no? Voleva lasciarsi andare, ma questo qua non è perché era preso, questo lasciarsi andare, perché era preso da un senso di sfiducia, perché l'aveva combinato di grosse, no, contro i cristiani, e quindi era in un certo senso scoraggiato e bisognava avere tanta fiducia, che dopo ha avuto fiducia nella misericordia di Dio, e quindi questo stato d'animo che poi era aperto alla preghiera, Paolo, non solo, ma era aperto quasi alla conversione, perché quel mantello che è stato posto davanti ai piedi, quel mantello di Stefano che era stato posto ai piedi di Saul, di un giovanetto, non era Saul. E quindi in un certo senso lassù, in un atteggiamento, era già in un atteggiamento di riflessione, di crisi di riflessione, e quindi era aperto alla grazia, è aperto all'incontro con Gesù. Grazie Padre, buonasera. Grazie mille Anna per questa tua richiesta di chiarimento. Effettivamente Saulo vive questa duplice dimensione, da un lato c'è un aspetto, come dire, negativo, se vogliamo, cioè l'aspetto in cui l'impatto con il risorto diventa qualcosa che lascia Paolo sconvolto, timoroso, comunque con un atteggiamento quasi di introspezione dentro di sé. Dall'altro c'è la dimensione della fiducia che si manifesta in quella preghiera che troverà risposta nell'arrivo di Anania, una preghiera che tra l'altro diventa a un certo punto anche visione, stando al racconto degli Atti degli Apostoli, perché vede un certo Anania, a un certo punto il Signore gli dice ad Anania: va sulla strada diritta, sta pregando e ha visto in visione un uomo di nome Anania venire a imporgli le mani. Quindi il Signore lo aiuta nella sua preghiera a cogliere il possibile, la possibile prospettiva della sua vita. Quello che volevo sottolineare è che l'impatto sulla via di Damasco è comunque un momento molto delicato per Saulo. Non bisogna dare per scontato che uno riesca da solo ad uscire dalla crisi che un momento, un impatto del genere può suscitare in una persona. Saulo, per uscire da quel momento di crisi, ha avuto bisogno della comunità, ha avuto bisogno di Anania. Certo, Anania ha potuto far forza sul fatto che c'era uno spiraglio aperto, ovviamente, però Saulo ha avuto bisogno di Anania. Altre persone in un contesto del genere non ce l'hanno fatta. Pensiamo a Giuda. Giuda è uno dei dodici, anche lui ha avuto un impatto forte con il Signore risorto. Fino all'ultimo il Signore risorto l'ha chiamato amico, non l'ha ripagato con la stessa moneta, però non ha retto a questo momento enorme di crisi, probabilmente perché in quel momento si è chiuso troppo nella crisi che questi momenti di impatto suscitano, senza aprirsi al dono della comunità, come invece è stato il caso per altri. Quindi grazie Anna per il tuo intervento, perché effettivamente ha sottolineato qualcosa che avevo cercato con altre parole di comunicare agli ascoltatori. Grazie. Pronto? Buonasera Don Giacomo. Buonasera. Sono Giampiero, chiamo da Catania. Mi dica, stasera abbiamo tanti interventi da Catania, sono contento. Bene. Una domanda, riguardo al nome Saulo e Paolo. Molte volte in effetti viene attribuita, o perlomeno viene legata la conversione di Paolo al cambiamento del nome. Una volta Saulo, adesso Paolo. Io francamente voglio dire, speravo con la delucidazione da parte sua, ho ascoltato la sua catechesi, insomma è stata molto bella riguardo a Paolo, a San Paolo, lo ammiro moltissimo. E appunto, siccome in effetti Saulo per tanto tempo, fin quando poi arrivò a Cipro, fu chiamato sempre Saulo, insomma ha evangelizzato abbastanza, o quantomeno sugli Atti non si legge qualcosa come imposizione da parte di Dio, come cambiamento di nome, o anche perché ecco, è stato battezzato come Saulo. Ecco, desideravo un attimino da parte sua un approfondimento su questo argomento, se si può considerare Saulo già convertito al cristianesimo già dal suo battesimo in effetti, e non soltanto poi quando poi si è chiamato Paolo. La ringrazio. Grazie Giampiero per la tua domanda, il tuo interrogativo. Effettivamente sì, a volte c'è questa associazione, no, nella nostra mentalità. Tanti Tanti elementi con cui noi a volte commentiamo i testi biblici fanno parte di un immaginario che colleghiamo ad alcuni aspetti secondari o tradizionali. Pensiamo ad esempio all'immaginario della conversione che vede Paolo cadere da cavallo. Abbiamo notato che nel racconto di Atti 9 non c'è nessun cavallo, c'è la caduta a terra, ma Paolo poteva essere tranquillamente anche a piedi. Quindi a volte ci sono questi elementi dell'immaginario che costellano la nostra interpretazione dei testi, e uno di questi è proprio legato al nome. L'impatto dà importanza al nome. Sono poche le persone nella narrazione biblica che vengono chiamati due volte. C'è Abramo, c'è Mosè, c'è Saulo, c'è Marta. Però non, se non sbaglio, se non erro, due mani sono troppe, sono meno di 10. C'è qualcuno anche che ha fatto proprio uno studio sulle persone che vengono chiamate due volte, sono sempre persone che sono legate a una rivelazione particolare di Dio nella storia della salvezza, e persone che devono vivere un cambiamento personale forte. Però notiamo che la sottolineatura del nome non è collegata al cambio del nome in questo caso, tanto vero che al capitolo 11, quando ci viene detto che a distanza di anni dalla rivelazione sulla via di Damasco, quando ci viene detto che Barnaba va ad Antiochia, vede la situazione di questa comunità perseguitata e decide di andare a prendere a Tarso Saulo, il nome è Saulo. Barnaba partì alla volta di Tarso per cercare Saulo, lo trovò, lo condusse ad Antiochia, rimasero insieme un anno intero in quella chiesa e istruirono molta gente. Ad Antiochia per la prima volta i cristiani furono, i discepoli furono chiamati cristiani. E poi alla fine del testo viene detto che Barnaba e Saulo, ancora questo nome, verranno mandati a Gerusalemme per sostenere anche la comunità provata dalla povertà. Notiamo che Saulo continua ad essere il suo nome. Allora, quando è che avviene il cambiamento da Saulo a Paolo? Il cambiamento sembra avvenire nel momento in cui l'apostolo viene inviato nei territori pagani. Probabilmente il fatto che l'apostolo viene inviato nei territori pagani ha bisogno di un modo di presentarsi diverso. Se nelle comunità ebraiche Paolo può presentarsi con il nome ebraico Shaul, cioè il nome di uno dei re di Israele, tra l'altro anche lui discendente della tribù di Beniamino come Saulo, nel momento in cui va in territorio pagano, in territorio dove i romani dominano, sceglie un nome affine a quello ebraico, ma che però ha una maggiore assonanza pagana, ed è Paulus, questo nome romano che è affine a Saulo, ma che gli permette di essere meglio accolto in un territorio che di ebraismo probabilmente ne sa poco e ne vuole sapere poco. Ecco allora quindi questa modifica del nome che sembra essere fatta per riuscire ad ottenere un maggiore coinvolgimento dell'uditorio. Poi ecco, su questo si è giocato anche su quell'elemento che lei diceva, cioè il cambiamento del nome dice una progressiva trasformazione dell'apostolo, ma è un elemento a mio avviso aggiunto in un secondo momento. Grazie Giampiero per la tua domanda. Ascoltiamo un ultimo intervento. Pronto? Pronto. Io sono Rosy, chiamo da Catania. Bene, bene, ma sono contento, avanti, avanti. Io niente, volevo mettere in evidenza l'aspetto che Paolo viaggiando, sicuramente essendo stato un grande viaggiatore, avrà amato l'avventura, siccome certo lui la amava per annunciare Cristo. Ora io sono, mi assomiglio a San Paolo perché mi piace moltissimo viaggiare. Proprio ieri ho fatto un viaggio, sono stata in Calabria a vedere i bronzi di Diace, poi siamo stati a vedere tutta la spiaggia, il lungomare, e ho fatto il paragone con Catania e con un gruppo di amici, e ho visto come è bello stare insieme, viaggiare, e penso che anche questo Paolo testimoniasse la bellezza anche del creato, del godere delle cose belle che lui nei suoi viaggi avrà pur visto. E questo, e solo questo volevo mettere in evidenza, se questo va bene, insomma. Allora, signora Rosi da Catania, questo può andar bene, però ha bisogno di un completamento, cioè questo viaggio che lei pone sullo sfondo dell'avventura va, come dire, completato con un altro aspetto della vita di Paolo, che lascio a lei e agli ascoltatori, cioè vi invito a leggere il capitolo 9 della prima lettera ai Corinzi. Nel capitolo 9 della prima lettera ai Corinzi noi cogliamo con quali atteggiamenti Paolo vive il suo viaggiare. E allora su questo sfondo tutto acquisisce una profondità, una ricchezza che hanno un altro tenore, che non è solo quello dell'avventura o della contemplazione della bellezza della creazione, cose sacrosante, ma che sicuramente non bastano per dire la statura, la forza di quest'uomo trasformato dallo Spirito che è l'Apostolo Paolo. Ecco, cari ascoltatori, io vi ringrazio per la vostra partecipazione a questa nostra trasmissione. Ringrazio Caterina di Potenza, l'ascoltatrice di Bologna, Carlo di Arezzo, Fabio da Catania, Felice da Scafati e poi Anna, Giampiero e Rosi, tutti e tre ancora da Catania che sono intervenuti. Come avete visto, ogni vostro intervento ha permesso di arricchire ulteriormente questa nostra trasmissione. Ecco, affido ciascuno di voi e affido anche la mia comunità, la mia congregazione che all'Apostolo Paolo si ispira alla forza dello Spirito, perché questo Spirito che ha trasformato Saulo possa trasformare ciascuno di noi rendendo sempre più la nostra fede una fede pasquale, capace di mettere in atto la forza di vita che è insita nella risurrezione di ciascuno. A tutti voi un caro saluto e ci risentiamo tra un mese per continuare la nostra lettura degli Atti degli Apostoli. Grazie a tutti, una benedizione e buona serata. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.